L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta, nella quale torniamo a parlare di un tema che ci è molto caro, ovvero le biciclette. Non solo parleremo di biciclette, ma insomma quello è il fulcro. E vi presentiamo una bella e concreta iniziativa presa a Casal Maggiore, siamo in provincia di Cremona, dove la prossima settimana si terrà la manifestazione La città dei bambini, organizzata dal comitato Slow Town insieme ad una quindicina di altre associazioni del territorio. Con l'occasione si inaugurerà la tangenziale dei bambini, che è un percorso appunto pedonale ciclabile pensato per i più piccoli, che in questo modo potranno muoversi in sicurezza tra la scuola e il centro storico della città. Con noi per parlarne ci sono Giancarlo Simoni, per l'appunto del comitato Slow Town, benvenuto. Grazie, buona giornata. E l'architetto Matteo Dondè, responsabile scientifico del progetto, esperto nella sua professione di mobilità nuova, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Giancarlo, noi ci siamo conosciuti l'anno scorso in occasione della famigerata o famosa, insomma dipende dai punti di vista, insomma biciclettata con il Politecnico di Milano sulla pista Vento da Venezia a Torino. Abbiamo parlato in quell'occasione di questo progetto molto rapidamente, ci avete lavorato tanto, adesso ci siete finalmente arrivati. Facci un po' il quadro della situazione, cosa farete la settimana prossima? Sì, la prossima settimana, e con precisione dal venerdì 6 maggio a domenica 8 maggio, come comitato Slow Town organizziamo la manifestazione La città dei bambini. E in questa occasione che cosa faremo? Ci focalizzeremo ovviamente sulla mobilità dei bambini e sugli spostamenti scuola-centro storico, come hai accennato tu in precedenza. Inauguriamo una tangenziale dei bambini, è la prima in Italia. In pratica che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un argine maestro, il percorso arginale del Po, perché Casal Maggiore è sul fiume Po, e lo abbiamo reso attrattivo per i bambini. Attrattivo? Ecco appunto come. In che modo? Innanzitutto creando uno stradello di collegamento dalla scuola all'argine, e poi abbiamo pensato a dei cartelli, come proprio dei veri cartelli stradali con 9 uscite verso la città. Quindi i bambini potranno andare su questa tangenziale dei bambini, poi troveranno dei cartelli con 9 uscite, ogni uscita avrà una indicazione ben precisa, che sarà ad esempio la palestra piuttosto che la biblioteca, piuttosto che il teatro o i musei. A questa tangenziale dei bambini, che sarà sicurissima perché non verrà, su questa tangenziale non passano le automobili, abbiamo unito una seconda innovazione, che è il metro minuto, che abbiamo mutuato dall'esperienza di Pontevedra in Spagna. E che cos'è il metro minuto? Il metro minuto non è altro che l'indicazione di percorsi pedonali dove al pedone viene data l'informazione di quanti metri e quanti minuti occorre per andare in determinati luoghi di interesse. E magari così avete scoperto, cioè voi no, ma qui chi la farà scoprirà che i luoghi che deve raggiungere sono davvero vicini e non meritava conto muovere l'automobile, insomma. Certo, l'obiettivo è proprio quello di far vedere che alla fine con 200, 300, 400 metri e qualche passo si arriva velocissimamente dappertutto. Noi l'abbiamo fatto ad hoc proprio per i bambini e quindi ad ogni uscita il bambino troverà questa cartina e ad esempio l'uscita biblioteca con l'indicazione dei metri e dei minuti che gli occorrono per arrivare dalla tangenziale fino alla biblioteca. E poi c'è la metro bottega, ho visto. E anche. Poi abbiamo inserito la metro bottega, che è un'altra invenzione nostra, sempre un po' copiata dal metro minuto, perché abbiamo anche coinvolto le botteghe di prossimità, 105, a dire la verità parecchie attività del centro storico, e abbiamo creato un altro schema che si chiama Metro Bottega Casal Maggiore. Che cos'è? È una metropolitana a cielo aperto, sempre pedonale e anche ciclabile, e costituita da 10 linee di diverso colore, ovviamente così è più facile trovarle, e in ogni linea vengono indicate le botteghe di prossimità presenti, quindi facciamo anche una sorta di promozione di questo famoso centro commerciale naturale, che ovviamente ormai sì, proprio un po' come c'è nei centri commerciali, uno entra e trova che negozi ci sono, dove sono, piano sopra, piano sotto, destra, sinistra, quindi lì lo fate sul paese. Certo, sul paese tutte le attività hanno partecipato, avranno una vetrofania con su scritto negozio amico della città dei bambini, quindi saranno riconoscibili e potranno poi distribuire questo metro bottega che rimarrà e verrà utilizzato anche per i turisti. Allora, per chi è all'ascolto, dice, perché a Casalmaggiore, che non è Milano o Roma dove magari c'è un traffico indiavolato, perché si sono messi a fare questa cosa? Perché comunque è il classico paese, cittadina, insomma, attraversato da una via principale dove purtroppo le automobili vanno un po' troppo veloci. Voi avete tentato in mille modi, no, di ottenere un rallentamento della velocità delle auto in attraversamento, ma con fortune alterne, direi, no, Giancarlo? Certo, noi siamo nati come comitato per introdurre le zone 30 e il 30 all'ora nel centro storico, perché i pericoli ci sono nelle grandi città ma anche nei piccoli centri. Noi abbiamo una città di 15.000 abitanti e purtroppo ormai le auto cercano di deviare dalle strade di grande percorrenza e si inseriscono nei centri per andare più veloci e quindi per tagliare, diciamo per così. Tagliare, utilizzano come passaggio il centro storico, vanno forte e quindi questo crea un grande problema, un pericolo di vivibilità dei centri storici. Noi stiamo cercando di introdurre il 30 all'ora, che fra l'altro dovrebbe essere anche introdotto nel nuovo codice della strada. Abbiamo poi coinvolto Matteo Doddè, che ci ha aiutato a fare una piccola sperimentazione 2 anni fa. Adesso però ci stiamo focalizzando molto sui bambini, perché sappiamo che se una città è vivibile e sicura per i bambini, poi è vivibile per tutti. Allora io a questo punto chiederei a Matteo Dondè, che abbiamo tenuto in attesa fino a questo momento, di spiegarci come responsabile scientifico di questo grande progetto, poi magari andiamo sugli aspetti quelli un po' più ampi delle zone 30 e così via, ma nello specifico di Casalmaggiore su cosa ha lavorato? Cosa fa il responsabile scientifico di un'iniziativa così, insomma? Beh, appunto, io occupandomi proprio di questi temi per lavoro ho cercato di trasmettere quello che sta avvenendo un po' in giro per il mondo, per l'Europa, perché veramente il modello di mobilità urbana sta cambiando. Professionisti, politici stanno ragionando sulla nuova città che mette al centro le persone e non più i veicoli. Questo è quello che ho cercato di trasmettere, tant'è che mi piace citare ad esempio la vice sindaco di Vienna, che in un importante convegno disse: garantire la migliore qualità della vita per i bambini deve essere l'obiettivo primario della città. I bambini sono il nostro futuro e solamente se cresceranno in un ambiente sano e accogliente potremo avere domani degli adulti responsabili. Quindi questa è l'importanza di mettere al centro i bambini in operazioni di questo genere. Poi ovviamente la sicurezza riguarda tutti. A partire dai bambini è importante proprio perché saranno il nostro futuro, ma l'idea è proprio trasformare le città principalmente riducendo la velocità dei veicoli, che è il problema principale per la sicurezza. Quindi lì a Casalmaggiore, come altrove, lavoriamo sui bambini e riduciamo la velocità nel centro storico, questi due filoni principali? Assolutamente sì, per la sicurezza ma soprattutto per recuperare la qualità della strada come spazio pubblico. Come sapete le nostre città sono ormai invase dalle automobili, abbiamo 70 auto ogni 100 abitanti, è il record assoluto, ci batte solo il Lussemburgo per intenderci, per cui l'auto ha invaso gli spazi pubblici e la qualità è crollata completamente. L'idea è recuperare la qualità delle nostre città, che sono tra le più belle in Europa, che siano grosse città o piccole città. Ridurre la velocità consente di condividere la strada e di renderla più ricca negli usi, che è quello della socialità, delle relazioni, non solo del passaggio del veicolo e quindi della strada come asse di scorrimento. Quindi dobbiamo riprogettare tutto, magari basta allontanare le auto e troviamo gli spazi a volte, no? Esattamente, senza dover costruire necessariamente. Non per forza dobbiamo eliminare l'automobile. L'automobile, se passa piano in una strada, ha bisogno di molto meno spazio. Il resto dello spazio lo possiamo usare con usi differenti, che può essere la seduta e l'alberatura per l'anziano che cammina, può essere il bar che mette fuori il proprio dehors, quindi a favore anche del commercio locale. Sono operazioni che vanno a rigenerare la città. Qualcosa di questo è stato fatto lì a Casalmaggiore, oltre ovviamente alla tangenziale di cui abbiamo detto? Avevamo provato, come ha detto giustamente Giancarlo, 2 anni fa con la sperimentazione di una zona 30, sì. Operazioni che stanno facendo comunque in Europa, si prende una strada e si fa provare per un breve periodo che cosa significa andare piano. In realtà residenti si accorgono subito dei vantaggi, le polemiche derivano di più dall'automobilista che era abituato a passare molto velocemente lungo la strada e che ora, vedendosi ridotta la velocità, si lamenta. Ma i vantaggi invece per chi abita, per chi vive la città, sono evidenti. Vorrei citare un altro paio di dati, secondo me molto interessanti, sui bambini. C'è uno studio danese fatto su 20.000 studenti tra i 5 e i 19 anni. Gli hanno fatto fare un questionario appena entrati a scuola e all'uscita. Sono riusciti a dimostrare che chi andava da solo, a piedi o in bicicletta, dimostrava maggiore capacità di apprendimento anche 5 ore dopo essere entrata a scuola. Per questo è così importante recuperare la mobilità dei bambini. L'OMS ci parla nel 2000 del bambino seduto, la generazione del bambino seduto, perché lo accompagniamo in macchina ovunque, anche a fare sport. Questo però ha generato il tema principale di questi anni, che è l'obesità dei bambini. Quindi recuperare l'importanza della mobilità dei bambini, l'autonomia è fondamentale anche per le capacità di apprendimento, per imparare a confrontarsi con i pericoli. Eppure siamo il paese che più accompagna i propri figli a scuola in macchina. Per intenderci, in Italia siamo sull'8% di bambini che vanno da soli, in Inghilterra e in Germania siamo al 40%. Sì, sicuramente le proporzioni in Italia sono soprattutto sul uscire da scuola, perché i bambini, io ho presente il caso delle mie figlie, da sole non possono uscire, non vengono. Esattamente. Quindi magari se io purtroppo anche mi fido a mandarle, comunque devo arrivare a prenderle, e a volte posso arrivare in bici, in auto, a piedi. Questo poi dopo sta anche al genitore, ovviamente, organizzarsi in modo tale da muoversi. Allora, dobbiamo fare una piccola pausa, riprendiamo tra un istante. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. 1:30, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. Stiamo parlando di una manifestazione che si terrà la prossima settimana a Casal Maggiore, in provincia di Cremona, la città dei bambini, organizzata dal comitato Slow Town. Si inaugurerà in quell'occasione la tangenziale dei bambini, che è un percorso da fare a piedi o in bicicletta, per l'appunto per i bambini, ma comunque per tutta la popolazione ovviamente di Casal Maggiore. C'è con noi Giancarlo Simoni del comitato Slow Town. Stavamo parlando con l'architetto Matteo Dondecker, responsabile scientifico di questo progetto, ma ovviamente anche di tanti altri che riguardano la mobilità nuova. E dicevamo, per l'appunto, i nostri bambini troppo spesso non riescono o non li facciamo muovere noi, o non hanno le condizioni per muoversi, e quindi poi dopo essere anche autonomi, imparare, no? Dicevamo, architetto, misurarsi col pericolo, con le novità, con le differenze. Esattamente, sì. C'è un'altra interessante esperienza a Reggio Emilia: da 10 anni fanno ad esempio il bicibus, una cosa molto simile, ma i bambini vanno in bicicletta accompagnati da 2 adulti, come se fosse un gruppettino di ciclisti che si muove verso la scuola. È molto interessante questo perché inizialmente pochi genitori accettano, quindi pochi bambini lo fanno, ma poi gli altri bambini della scuola, vedendo questi ragazzini arrivare a scuola in bicicletta, vogliono farlo anche loro. È una cosa che poi piace ai bambini. Certo. Si divertono, osservano la città, dialogano, chiacchierano, è ben diverso che accompagnarli in automobile. Sicuramente. Se non sbaglio, avete fatto qualcosa di simile, Giancarlo Simoni, voi l'anno scorso, per arrivare poi dopo a questo progetto che presentate definitivamente la prossima settimana, no? Sì, lo abbiamo fatto il 29 maggio, abbiamo organizzato tutti a scuola a piedi in bici, e hanno partecipato centinaia di bambini accompagnati dai genitori. Abbiamo proprio sperimentato la tangenziale dei bambini, che allora non avevamo chiamato così, tagliando un po' l'erba. Adesso invece abbiamo proprio ricavato uno stradello. Ritengo che sia importante mettere l'accento sulla sicurezza, perché è chiaro che nei percorsi casa-scuola i genitori, ovviamente, se non c'è il percorso sicuro, non lasciano andare i bambini, e anche loro stessi non si sentono sicuri. Quindi noi abbiamo proprio creato questa tangenziale dei bambini perché è un percorso sicurissimo, e quindi che invoglia i genitori. I bambini ci vanno volentieri perché è un percorso bellissimo, immerso nella natura, c'è il fiume, ci sono gli alberi, è proprio molto bello come percorso, ma ci vuole anche la sicurezza, e quindi essendo un percorso che non è attraversato dagli autoveicoli, invoglia proprio ad utilizzarlo. È chiaro che poi sicurezza questo... vuol dire sia anche manutenzione che illuminazione, c'è tutta una serie di attenzioni che avete dovuto ovviamente avere, perché immagino, sì, certo, questo sicuramente solo l'assenza di auto, ecco, insomma. No, non soltanto l'assenza di auto, ma questa è una cosa importante. Poi è chiaro che, avendo creato questo metro minuto con i 9 percorsi, andremo poi a lavorare sulle infrastrutture leggere, che ovviamente a Casamaggiore mancano, sugli incroci, perché gli incroci sono quelli più pericolosi, dove mancano addirittura i percorsi pedonali, e questo mancano le strisce a terra, e quindi è, diciamo, solo un inizio questo, per poi cercare di andare a vedere dove passano i bambini nei loro passaggi quotidiani e mettere in sicurezza, facendo rallentare le auto, come giustamente faceva notare l'architetto Dondé, perché senza la sicurezza e le auto che vanno piano è difficile portare i bambini in strada in Italia. E a noi ce l'abbiamo fortemente questo problema, perché davanti al nostro plesso, che ha più di 700 bambini, quasi tutti vengono in automobile. L'obiettivo nostro è quello di creare un percorso alternativo che sia sicuro, e poi da lì iniziare a andare a vedere incrocio per incrocio quali sono le problematiche, e facendo leva sulla sicurezza dei bambini, trasformarla in sicuro poi per tutti, non solo per i bambini ma anche per gli adulti e gli anziani. Giancarlo, come avete fatto con l'amministrazione comunale? Nel senso, ovviamente sono cose che si fanno insieme o non si riesce a farle, ci va un supporto, ecco, anche credo da parte di chi amministra, specialmente adesso quando andrete a incidere sugli incroci e così via. Diciamo che è sempre abbastanza conflittuale il rapporto con le amministrazioni, perché il problema essenziale quando si va a toccare la viabilità è il consenso elettorale, quindi non soltanto qui a Casamaggiore ma in generale il rapporto dei comitati che chiedono la sicurezza, la vivibilità, e poi sul fatto che le amministrazioni hanno paura di perdere il consenso. Quindi noi essenzialmente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto il permesso di fare questa manifestazione e di sperimentare, tu sai che a me piace molto sperimentare, per far vedere che c'è un altro modo di muoversi. Mettiamo in sicurezza alcuni percorsi, poi è chiaro che gli altri dovranno poi essere messi in sicurezza dall'amministrazione. Noi quello che cerchiamo di dimostrare è che è possibile fare come si fa in Europa, dove i bambini vanno a scuola in autonomia, a piedi e in bicicletta. Quindi, insomma, cercate di dimostrare che questo è possibile per portare un po' tutti sulla vostra via. Architetto Dondé, a proposito di Europa, lei prima mi ha citato Vienna, ma non mi ha citato nessuna grande città italiana. Non ci sono progetti di questo tipo in giro, di questa attenzione nelle grandi città italiane? Ne stanno nascendo diversi. C'è l'esperienza nata dal basso a Milano della critical mass dei bambini, c'è l'esperienza a Roma del bike to school, a Reggio Emilia del Bicibus, in realtà anche le città italiane pian piano si stanno muovendo. Come diceva giustamente Giancarlo, spesso si tratta di un problema di consenso elettorale, un po' la paura delle amministrazioni di intervenire su questi temi. In realtà io faccio molti convegni oltre i miei lavori e mi rendo conto che in realtà forse i cittadini sono quasi più pronti degli stessi amministratori se questi temi vengono raccontati bene. sottolineare, sì, che non è una battaglia contro le automobili, ma è a favore della vivibilità e della sicurezza di tutti gli utenti. Mentre sulla stampa sembra quasi sempre un conflitto tra utenti, in realtà stiamo parlando di una città sicura per tutti, più bella per tutti, tra l'altro più sana anche tutti. Esattamente, tra l'altro anche più sana, per se pensiamo appunto all'inquinamento atmosferico, quei periodi dell'anno, così via. Il capitolo spese, so che non sono ingenti, ma vorrei ovviamente farlo dire da voi che ci avete lavorato. Ma noi non abbiamo fatto dei grandissimi interventi strutturali, quindi questa manifestazione la organizziamo con poche migliaia di euro. Poi devo dire grazie anche alle attività locali, aziende locali che hanno apprezzato l'iniziativa e ci stanno sostenendo, quindi con veramente 7-8 mila euro riusciamo a mettere in piedi tutta questa manifestazione, a progettare la tangenziale, metro minuto, anche il metro bottega. Poi non è un problema di soldi, perché quando c'è il consenso su un'attività il denaro si trova, a volte va in capitoli di spesa diversi. Bisogna cercare di riprogettare e fare in modo che i pochi soldi o tanti che ci sono vadano su questi progetti, perché sono questi, quelli della rigenerazione urbana, che sono più urgenti per le città italiane. Una cosa che volevo aggiungere prima è che noi non siamo affatto contro le auto, e di solito i commercianti sono contrari a questo tipo di iniziative. Noi invece abbiamo raccolto fino a più di 100 botteghe di prossimità. Questo perché? Perché stiamo lanciando un messaggio molto chiaro: le auto passano, ma passano piano, in modo tale che i pedoni, i bambini, i ciclisti possano anche loro muoversi in sicurezza. Questo da noi si è capito e abbiamo portato dalla nostra parte questa rete di negozi. Fra l'altro volevo segnalarvi che anche a Milano i genitori antismog stanno raccogliendo una rete Amici dell'Aria, e che noi ci stiamo sentendo, fra l'altro, perché è molto simile alla nostra, quindi le botteghe di prossimità che cominciano anche loro a capire che una mobilità diversa va in funzione anche del commercio locale. Sì. Architetto, sulle spese, diciamo così. Gli interventi per questo tipo di mobilità non sono costosi, cioè sono fattibili, e forse a volte addirittura a costo zero, se si tratta di rallentare il passaggio di un'auto. Esattamente, ci sono strumenti per farlo a basso costo, come alternare la sosta in modo da creare delle chicane. Ovviamente gli interventi sugli incroci costano un po' di più, servono un po' più di risorse, però faccio notare che l'Italia oggi come oggi, tra l'incidentalità e l'inquinamento, spende 45 miliardi di euro l'anno, il 4% del prodotto interno lordo. Quindi ridurre l'incidentalità e ridurre l'inquinamento significa avere anche più risorse per fare questi interventi. Un dato che raramente viene citato, purtroppo. E tra l'altro ormai ci sono veramente molti studi che dimostrano come pedoni, ciclisti, utenti del trasporto pubblico spendono meno giornalmente, ma di più nell'arco di un mese, nei negozi locali, rispetto all'automobilista che invece spende di più nei centri commerciali. Quindi in realtà le realtà locali, che spesso i centri delle piccole città si sono un po' svuotati del commercio che ha difficoltà a vendere, in realtà rigenerare, riportare i cittadini a vivere la città a piedi, in bicicletta, non per forza in automobile, ha dimostrato di essere molto utile anche al commercio locale. Allora, io ringrazio i nostri ospiti perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ricordo, sono Giancarlo Simoni del comitato Slow Town di Casal Maggiore, dove il 6, 7, 8 maggio, quindi la prossima settimana, potrete partecipare, se vorrete, alla manifestazione La Città dei Bambini, parlare direttamente con lui. Magari c'è anche l'architetto Dondè la settimana prossima a Casal Maggiore. Sì, viene l'architetto Dondè, ci sarà anche il deputato Gandolfi e l'ingegnere Nico Chiarini. Faremo proprio un convegno, una tavola rotonda dal titolo Casal Maggiore è la città dei bambini. Ma che quale dei tre poi giorni? Il sabato 7. Ecco, magari anche sindaci, amministratori o cittadini, altri comitati che vogliano vedere insomma come le cose possono cambiare, possono mettersi direttamente in contatto con Giancarlo, partecipare insomma a questo incontro. Io do a tutti appuntamento per la prossima puntata dell'Altro Pianeta, la prossima settimana alla stessa ora. Grazie.